scoprire la tua sagoma. E Dio che ballo al ritmo del mio suono, non chiedo ora perdono, e simulo il cuore che pompa vita. Esiste solo un treno per viaggiare, non ferma la stazione, l'ho visto io passarti qua, deciso in quell'istante a non salire, di fermare.